sai, non posso restare qui ormai. La notte scende, scende su di noi. Vuoi o no, vuoi un cielo più limpido, vuoi un mare più placido, dove andare noi due? Sì, un amore più libero, dentro a boschi più fragili, di una vita così. No, io non voglio difendermi, voglio solo risorgere. Laggiù l'orizzonte che scende e poi ci invita ad andarcene, io e te, da un mondo così. Noi, sì noi, in quel letto di fragole, ti vuoi, ci ameremo sul polline, su dai, di quel fiore laggiù. Poi, e poi di questo amore più libero, ritorna nell'anima, ne vogliamo noi due, siamo amore, e quella pelle tua morbida, che conserva il profumo, profumo di quel fiore laggiù. Degli angeli, degli angeli, io e te senza limiti, senza limiti, respiriamo l'amore, l'amore, e dentro il bosco degli angeli, degli angeli, io e te senza limiti, senza limiti, respiriamo.